Ci troviamo a passare davanti a una clinica privata e dobbiamo aggirare un macchinone extra lusso con autista che sonnecchia in attesa. Proprio in quel momento, accompagnato con estrema cautela e deferenza, vediamo uscire dalla clinica un vecchio signore rinsecchito sotto una lobbia di gran pregio, roba d'anni fa, e infagottato in un elegante paletò con collo di pelliccia. Avrà una caterva di anni e di quattrini, occhio e croce. Fa qualche passo e si infila in un'utilitaria. Anna e io ci guardiamo e ci cogliamo sul fatto con lo stesso pensiero, cioè, ma avrei detto che fosse il tipo giusto per andare sul macchinone con autista, e anch'io, e invece no. Siamo a casa davanti alla TV, stiamo armeggiando la disperata ricerca di un canale sopportabile e incappiamo in uno di quelli che trasmette videoclip in continuazione. È curioso come la rappresentazione della vita in questi pendant visivi di complemento alle canzoni, chiamiamoli così ma anche un po' sbrigativamente, assecondi una sorta di ideologia del fotomontaggio. Voglio dire che vi si aggirano sempre più spesso figure umane concepite come assemblaggi di elementi di cui almeno uno stoni con gli altri. Ci sono, che so, facce da ragionieri vestiti da Tarzan, negroni infagottati da bebè, anziane in guepier, travestimenti in base a codici vestimentari irrimediabilmente stravolti, no? La parola d'ordine ha i suoi anni e li dimostra tutti, no? È sempre la stessa, è patele bourgeois, ovvero trasgredire il conforme, diciamo, ottenendo in breve, diciamo, anche nell'ossessiva ripetizione, ovviamente un nuovo conformismo. Ogni oggetto, come ogni indumento, ha la sua storia, e questa storia è fatta di relazioni con altri oggetti e con altri indumenti. I mutamenti ci sono, ma sono progressivi. Prima che i jeans passassero dallo stato di indumento da lavoro a seconda pelle, ce n'è voluto. Ha dovuto mutare la loro valenza funzionale ed ha dovuto prendere il sopravvento una ricategorizzazione simbolica, diciamo così. Per stupire qualcuno oggi, spostandoli nella mappa delle potenziali figure umane a disposizione, come minimo i jeans oggi dovrebbe indossarli la regina d'Inghilterra con un bolerino ghepardato che lasci l'ombelico fuori. Nei videoclip, il destino di quel vecchietto rinsecchito con lobbia e paletò impellicciato, il suo destino è alla guida, a guida di una vecchia dunbuggy circondato da tre circasse californiane mezze nude. Sembrerebbe che tutto ciò sia roba da percepire in tempi sufficientemente brevi da non lasciare il tempo di pensare e capire che si tratta di roba vecchia. Risaputi scherzi d'avanguardia artistica di inizio secolo, sulla ricopiatura dei quali evidentemente c'è ancora qualcuno che ci guadagna qualcosa. Tuttavia, vai per la strada e ti rendi conto che qualcosa di questa tecnica è riuscita a passare dai videodischi della tecnologia dell'immagine digitale alle persone in carne ed ossa. Banchina di attesa del metrò, 6 di sera. Maturo dirigente d'azienda, lo si capisce dal cipiglio, dalla distanza che mantiene dai circostanti, dalla grisaglia con cravatta, dalla montatura dell'occhiale, lo si capisce anche dalla borsa in pelle. Bene, maturo dirigente d'azienda con mantella stile Marlboro Country, esattamente come se avesse 30 anni, stesse accanto al fuoco, che so, nell'Oregon, se esiste l'Oregon, notte fonda dopo una giornata in sella, con la barba da fare, si assaporasse il fumo aspro e forte di una sigaretta per uomini virili in combutta con la natura incontaminata. Esattamente così. Voglio dire che l'ibrido culturale fa le sue vittime. Che dobbiamo abituarci sempre di più al carattere progressivamente ambiguo dei segni che ci circondano. Come le parole subiscono un continuo slittamento semantico, finendo prima o poi a significare magari esattamente l'opposto di quel che avevano significato un tempo, così gli oggetti o gli indumenti scadono nella loro funzione anche ideologica e ne acquisiscono un'altra. Nell'ultima lotteria cui abbiamo partecipato, in palio c'era un asse d'accesso trasparente, con dentro quello stesso filo spinato che l'americano Lucien Smith aveva inventato, sicuramente per tutt'altri scopi, nel lontano 1867. La buona sorte ci ha baciato in fronte e il nostro numero non è stato estratto. Marco torna da scuola carico di compiti come al solito. Fra l'altro, c'è da leggere un racconto e poi scriverne un seguito. Il compito è figlio di una enigmistica letteraria che mi è nota. Per esempio, diamo l'inizio di un racconto, poi il lettore prosegue come gli pare. Una sorta di induzione alla creatività a ostacoli, ostacoli costituiti dai vincoli di partenza. D'accordo, ma qui il racconto non è affatto incompleto. Qui il racconto è fatto e finito. Aggiungervi qualcosa è privo di senso e letterariamente scorretto. Ogni racconto ha una sua logica e una sua coerenza. Se l'autore l'ha concluso nel modo in cui l'ha concluso, è ovvio che l'abbia potuto fare in merito a tutto ciò che ha gradualmente e pazientemente costruito. Come dire che ogni parola, ogni aggettivo, ogni verbo, ogni significato esplicito e implicito mirasse a ottenere quel risultato finale, quello lì. Una volta messo il punto conclusivo, non vi si può aggiungere più nulla, a meno di non modificare l'assetto precedente, quell'assetto che portava per l'appunto a quella conclusione, ma questa modifica al compito scolastico contraddittoriamente non la richiede. Beh, qui la superficialità dell'ideologia del fotomontaggio è ancora più evidente, come più evidenti sono i guasti che combina.